We'll continue now with the dialogue in the lift. When the lift stops, a man gets in. Buonasera. Buonasera. Scusi, siamo al terzo? Al terzo? Sì, è il terzo piano. Siamo al terzo. I'm sorry? È il suo piano. It is your floor. Andiamo. Oh, right. Grazie. Buonasera. Di niente. Buonasera.